casa il mio gergo, si lascia un po' da tergo, le sopere, le teorie del paradiso, vengo da sed mio viso, non porta il raggio che in Irlanda i trini degli alti che domini. Perdona se dicendo io corro il rischio di buscar qualche fischio. Sobbarco ad Escarlo per modo che si trovi in

parva come fulgoreggiano a vestro le capanne. Crepuscolo assorto immobilmente. Vedi quel frate grigio in mezzo ai campi vagolante laggiù. Da lungo tratto, maestro, l'avvisai, non la distrano appare in esso. Aguzza bello sguardo per chi tieni quel frate. Rosario.

facendo rimedio. Or andrà la sua tenzon, or andrà la sua tenzon, verso il sole. Come s'esce di qua, dove i cavalli, le carrozze, i stazioni.